Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sapere anticipare e precorrere i tempi, essere un passo davanti agli altri grazie a dosi di coraggio e lungimiranza fuori dal comune e giungere così, grazie a quelle doti, a scoprire nuovi mondi oppure nuovi modi per migliorare il mondo che già si conosce. È così che definiamo un pioniere e ne abbiamo esteso il significato anche a colui che per primo si dedica, grazie a queste caratteristiche, a nuove scoperte e ricerche, introducendo idee, innovazioni, nuovi orizzonti. Oggi, a Destini Incrociati, ci occupiamo di chi nel suo settore è stato antesignano, guida, precursore e di chi queste doti le ha sapute seguire sublimandole alle proprie, fatte di coraggio, talento eccezionale. Parleremo di un imprenditore illuminato e di un leggendario campione sportivo, di circuiti e strade polverose, di podi e record incancellabili e soprattutto del fascino irresistibile delle due ruote. Se fai le vacanze in motocicletta, le cose assumono un aspetto completamente diverso. In macchina sei sempre in un abitacolo, ci sei abituato e non ti rendi conto che tutto quello che vedi da quel finestrino non è che una dose supplementare di TV. Sei un osservatore passivo e il paesaggio ti scorre accanto noiosissimo dentro una cornice. In moto la cornice non c'è più. Hai un contatto completo con ogni cosa. Non sei uno spettatore, sei nella scena. E la sensazione di presenza è travolgente. Queste parole, tratte dallo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, libro culto dello scrittore e filosofo statunitense Robert Persig, ci trasmettono il senso di libertà che può regalarci una moto, soprattutto quando il suo utilizzo è accompagnato a un viaggio, a un'avventura, a un percorso geografico. E di questo dobbiamo ringraziare pionieri del motociclismo quali i francesi Pierre ed Ernest Michaud, che nel 1869 costruiscono il mitico Scuoti-ossa, il primo motociclo a vapore, o anche Gottlieb Daimler, che si può considerare il padre del motociclo e che nel 1885 costruisce e fa funzionare un biciclo di legno con motore a benzina. E ancora Michele Werner, il primo ad abbandonare il termine biciclo a motore per motociclo, o meglio ancora motocicletta al femminile. Perché ormai, e siamo solo agli albori del Novecento, è l'amante più desiderata dagli uomini di ogni ceto, compagna inseparabile del moderno concetto di velocità, come conferma il più grande pilota italiano, Valentino Rossi. Ma la velocità è una cosa molto emozionante ed è incredibile quanto ci si può abituare alla velocità. Per esempio, la prima volta che io ho provato la Honda 500 ho pensato di fare qualcos'altro nella vita, perché sai, il rettilineo diventa stretto, la moto, cioè non facevo fatica ad andare dritto. Poi con il passare dei mesi, dei chilometri, ti abitui a quella velocità e dopo un po' ti sembra di andare piano quasi. Quindi io per esempio non vado mai a vedere la MotoGP da fuori, perché da fuori la velocità è incredibile, mi fa paura. E invece da dentro la moto capita tutto molto più lentamente. Ecco. Valentino è un pilota che ha legato la sua carriera ai marchi che ha portato in vetta ai campionati, Honda, Yamaha e ora Ducati. Un binomio, quello costruttore-pilota, che è al centro della storia che vogliamo raccontarvi. Per farlo ci spostiamo indietro nel tempo, quando Giovanni, un nobiluomo di origini parmigiane, pioniere dell'aviazione civile italiana, al termine della Prima Guerra Mondiale fonda una ditta di costruzioni aeronautiche a Samarate, in provincia di Varese, per dedicarsi alla costruzione di velivoli. Ma a soli 48 anni, il conte è costretto ad abbandonare i suoi sogni, morendo prematuramente nel 1927 e lasciando l'azienda ormai ben avviata nelle mani della moglie e del promettente figlio primogenito. E lui, uno dei nostri protagonisti, il conte Domenico Agusta. Domenico Agusta. Quali sono i sogni di un giovane uomo che si affaccia al mondo del lavoro e dell'impresa? Quali le speranze di riuscita? Quando Domenico Agusta riceve dal padre morente le chiavi delle costruzioni aeronautiche e della sua nuova vita, prova forse un iniziale smarrimento. Ma il carattere è forte e al suo fianco trova una madre coraggiosa e un fratello minore, Vincenzo, pronti a dargli una mano. Sono anni impetuosi quelli che attendono gli Agusta e il resto degli italiani, anni nei quali il movimento futurista parla di velocità e di macchine, della bellezza energetica dell'ingranaggio, dell'acciaio e dell'elettricità e di un rapporto uomini e motori preconizzato dal futurista Filippo Tommaso Marinetti con queste parole. Bisogna dunque preparare l'imminente e inevitabile identificazione dell'uomo col motore, facilitando e perfezionando uno scambio incessante di intuizione, di ritmo, di istinto e di disciplina metallica. Noi aspiriamo alla creazione di un tipo non umano, nel quale saranno aboliti il dolore morale, la bontà, l'affetto e l'amore. I soli interruttori della nostra possente elettricità biologica. Il tipo non umano e meccanico, costruito per una velocità onnipresente, sarà naturalmente crudele, onnisciente e combattivo. L'identificazione dell'uomo col motore diventa per Domenico il pane quotidiano e per i successivi 15 anni il conte si dedica anima e corpo allo sviluppo, alla produzione e manutenzione di velivoli militari utilizzati dalla Regia Aeronautica fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando a seguito delle clausole dei trattati di pace è proibita all'Italia la produzione di velivoli. L'azienda deve fronteggiare un periodo di crisi che tenta di superare cambiando le linee di produzione, adattandosi a costruire barche e autobus. Ma nella mente e nei sogni reconditi del conte Agusta, qualcos'altro preme per emergere. Da sempre Domenico coltiva un amore sfrenato per i veicoli terrestri, in particolare a due ruote. E già dal 1943, clandestinamente, poiché i tedeschi proibiscono ogni produzione non finalizzata a scopi militari, chiede ai suoi tecnici di sviluppare un piccolo motore a due tempi, di 98 cm cubi, a due velocità. Giunta la sospirata liberazione, il 12 febbraio 1945 è ufficialmente fondata la Meccanica Verghera, società anonima, quale sezione aziendale del gruppo Agusta, dedicata allo sviluppo di veicoli terrestri a motore. Dopo oltre 20 anni dedicati al cielo, è giunta l'ora delle due ruote. Il 1945 è l'anno della prima MV Agusta, la 98 in versione turismo, i cui progetti esecutivi e stampi di fusione nascono alla fine del 1943. Curiosamente, la denominazione della moto è quella di Vespa 98. Il nome è personalmente scelto dal conte Domenico Agusta, ispirato al sottile e acuto ronzio prodotto dal piccolo propulsore a due tempi. Al momento di registrarlo, però, si scopre che il nome Vespa è stato già depositato. In Agusta lasciano correre, ma per un gioco di incroci del destino, quel marchio sarà rilevato nel 1946 dalla Piaggio e utilizzato per denominare uno scooter progettato dall'ingegner Corradino d'Ascanio, destinato a diventare particolarmente noto a livello mondiale. Mentre la Vespa si appresta a entrare nella storia del costume italiano per diventare negli anni oggetto di culto, ancor prima che mezzo di spostamento, Domenico Agusta lavora per ottenere dalle sue due ruote qualcosa di più di un oggetto di design adatto a percorsi cittadini. E per uno spirito competitivo come il suo, il passo per portare i suoi modelli nel mondo delle gare è molto breve. Già nell'ottobre del 46 alla Spezia, in una gara di regolarità, la MV 98 a tre velocità miete il primo storico successo per la casa lombarda, replicato solo 7 giorni dopo in circuito a Valenza, in Piemonte. L'entusiasmo in azienda sale e, come spesso accade a chi lega i propri sforzi ai successi sportivi, l'impegno raddoppia e le idee si affollano. Tra queste, la produzione della 98 Sport, dotata di forcella telescopica, telaio più corto, assetto ribassato, motore più potente, quasi 5 cavalli. Per l'epoca, un bolide. Passano gli anni, i modelli di casa Agusta si moltiplicano sempre più innovativi e potenti, così come le vittorie si alternano alle sconfitte sui circuiti italiani e internazionali. Il 1949 è l'anno del primo motomondiale della storia e già nel 1952 una MV Agusta vince il suo primo titolo iridato nella classe 125. In sella il britannico Cecil Sandford, che l'anno successivo otterrà la piazza d'onore. È in questo periodo che Agusta si innamora definitivamente delle competizioni e dei piloti in grado di vincerle in sella alle sue creazioni. Tutte le moto destinate alle competizioni passano sotto lo sguardo severo del conte, che ama andare in giro con la sua mitica Cadillac DeVille, che accoglie nella sua squadra, come se fossero i suoi figli, i più grandi piloti del periodo. Da Carlo Ubiali a Mike the Bike Haywood, per tutti gli anni 50 sono molti i corridori che salgono sulle Agusta. Dilettanti e professionisti, con primari e assi di prima grandezza, meteore che hanno brillato lo spazio di un attimo e stelle che hanno lasciato un ricordo indelebile nell'Olimpo motociclistico. Sentiamo una testimonianza del dottor Costa, direttore della clinica mobile del circuito del moto mondiale, sulla grandezza di Mike Elwood. Mike Elwood è uno dei piloti, diciamo, magici della storia del motociclismo. Mike Elwood era un eclettico, era capace di correre in 5 classi e vincere in 5 classi. Eppure, colui che avrebbe dato alla casa di Samarate e al conte Domenico le più grandi soddisfazioni e gloria sportiva, all'epoca di questi primi successi non è che un adolescente. Nato sulle sponde occidentali del lago d'Iseo, è già fortemente attratto dal mondo dei motori, ma a causa soprattutto della ferma contrarietà del padre verso l'insicura in tutti i sensi carriera di pilota, è costretto a correre solo sulle strade sterrate, tortuose, che costeggiano il lago, nelle locali gare di gincana, o al più nelle gare clandestine organizzate da qualche ragazzino in sella all'aquilotto bianchi di famiglia. Eppure quel ragazzino un pilota lo diventerà per davvero e legherà il suo nome a un numero ancora oggi ineguagliato di vittorie del moto mondiale. E anche il nome del secondo protagonista di oggi, Giacomo Agostini. Giacomo Agostini non voleva che corressi in moto, quindi è stata una lotta per poter avere il permesso, che non vi dico, ce l'avevo già raccontato, è stato molto difficile, però finalmente sono riuscito, altrimenti purtroppo i 15 titoli non arrivavano. Mentre Giacomo Agostini nei primi anni 60 prende sempre più confidenza con le due ruote, il mercato delle motociclette inizia invece a subire il contraccolpo del forte interesse degli italiani per l'automobile, grazie soprattutto al miracolo economico e all'arrivo sul mercato della Fiat 600, simbolo e icona di quel felice periodo del bel paese. Ma alla Agusta non si perdono certo d'animo. Guidati dall'inesauribile Conte, i tecnici caratterizzano il prodotto MV in maniera ancora più sportiva. Nasce la prima maximoto di serie a 4 cilindri, la 600, e la mitica 750S America, capace di raggiungere il record di 220 km orari di velocità massima. Le moto da gara sono invece affidate a Haywood, che riesce a mietere successi ininterrotti tra il 1962 e il 1965. Il conte, lungimirante e mai sazio, intuisce che il grande Mike the Bike non può tenere sempre alto il nome Agusta sui circuiti di gara da solo. Capisce che il britannico ha bisogno di una spalla, di un comprimario all'altezza che sappia crescere all'ombra del grande campione per diventare un giorno l'erede. Il tempo dell'incontro di Giacomo Agostini con il conte Domenico Agusta e il suo destino di campione è all'ultima curva, prima del rettilineo della gloria. Si dice che la differenza tra gli adulti e i bambini è solo nel prezzo dei loro giocattoli. E probabilmente nulla è più vero di questo quando si parla di motociclette. Sportive, stradali, gran turismo, enduro, motocross, trial e per gli autentici malati di due ruote i chopper, le custom, le scrambler, le motard. Ma anche i milioni di scooter, la Vespa ne è stata l'immortale battistrada, che ogni giorno tracciano infinite gincane nel traffico cittadino in tutte le città del pianeta. La moto è libertà, ribellione, e Steve McQueen a bordo della Triumph TR6 Trophy nella Grande Fuga. Sono i mozzi in Vespa e Lambretta contrapposti ai custom dei rocker nel film Quadrophenia. Ma è soprattutto velocità, brivido, emozione, sfida alle leggi della fisica. Perché se è vero che l'effetto giroscopico è una legge matematica che spiega l'equilibrio di cicli e motocicli, come si può non restare stupefatti quando un bolide a 200 all'ora affronta una curva in posizione pressoché orizzontale e appoggiato a pochi centimetri di battistrada? Forse è un po' come la storia del calabrone che vola ignaro di poterlo fare. Ma è certo che un pilota di moto mondiale rappresenta la massima evoluzione della specie motociclista nella sfida alla velocità. Oggi, a Destini Incrociati, parliamo di un pilota che questa sfida ha vinto più volte di ogni altro, Giacomo Agostini, e di un costruttore che ne ha reso possibili le imprese, il conte Domenico Agusta, del quale sentiamo il ricordo dalle parole di uno stretto collaboratore dei tempi d'oro. Prima dell'incontro decisivo con Agusta e con la gloria, Giacomo Agostini, detto Ago, da Lovere, in provincia di Bergamo, se non ancora campione, ha sempre comunque pensato da pilota. È poco più di un bimbo quando mette in fila gli specialisti della provincia nelle gincane organizzate durante le sagre paesane, con papà Aurelio che storce il naso, convinto che il figlio faccia uno sport troppo pericoloso. Ma nulla può contro la bruciante passione del figlio. Complice anche il consigliere di famiglia, un anziano notaio un poco sordo, che interpellato in merito al timore che la moto fosse troppo pericolosa o potesse distrarre il figlio dallo studio, capendo bicicletta in luogo di motocicletta, risponderà con queste parole. Dai Aurelio, firma. Fagli fare dello sport. Lo sport fa bene, soprattutto ai giovani. li tiene lontani da altre distrazioni, altri pericoli. Ma Aurelio Agostini probabilmente è già convinto. E quella firma necessaria all'iscrizione alle gare ufficiali del figlio la mette assieme a quella sul contratto d'acquisto della moto dei sogni di Giacomo e di molti dei suoi coetanei dell'epoca, una Morini 175 7 Bello. E questa la moto con la quale Ago si presenta alla sua prima gara ufficiale, il 19 luglio 1961, in tuta di pelle nera e caschetto a scodella. E la Trento Bondone, oggi la più vecchia e lunga gara motociclistica in salita d'Italia. Giacomo, nato il 16 giugno del 1942, primo di tre fratelli, ha da poco compiuto 19 anni e per l'epoca è ancora minorenne, ma quel giorno si piazza in seconda posizione. Ma la piazza d'onore è una posizione sulla quale il giovane non si accontenterà mai facilmente. L'anno seguente, sempre in sella al 7 Bello che utilizza anche per i suoi spostamenti, ottiene la sua prima vittoria a Modena nel campionato italiano di velocità cadetti. Su quella moto pare davvero esserci nato. La vittoria di Ago, un'impresa, data la scarsità di mezzi con cui la realizza, non sfugge all'attenzione di un uomo di poche parole ma di grandi intuizioni. Un costruttore e a sua volta un pilota. E il bolognese Alfonso Morini, patron dell'omonima casa e artefice della prima svolta del destino di Agostini. È lui a offrire a quel ragazzo dai capelli lunghi ma ben curati, pulito nell'aspetto, quanto nelle linee di guida, una proposta d'ingaggio e una Morini ufficiale da gara. Ago è al settimo cielo, ma ancora una volta si deve vincere la diffidenza di papà Aurelio e le preoccupazioni di mamma Maria Vittoria. Troppo poco per fermare la storia del motociclismo. Così Giacomo, dopo un breve periodo di rodaggio nei campionati juniores che vince facilmente, dal 1964 è promosso prima guida del reparto corse. Vince il campionato italiano 250 e riesce anche a piazzarsi egregiamente in alcune gare del moto mondiale. Quello con Morini è un legame stretto, annodato da stima reciproca e genuino affetto. Ma il patron non è in grado di fornire a Giacomo un mezzo e un'assistenza adeguati a poter vincere un campionato del mondo assediato dalle grandi marche giapponesi. Sa che il ragazzo è un predestinato e che presto sarà pronto per un trampolino di maggiore altezza. Da parte sua Ago, da sempre innamorato della Morini, non vorrebbe mai lasciare la casa felsinea, ma nel 1965 il suo destino imbocca alla fine il rettilineo al termine del quale lo attende l'uomo che lo cambierà per sempre. Sentiamo un ricordo di Agostini tratto da una recente intervista di Lello Vaccaro ed Ettore Freda per la trasmissione televisiva Star Bikers. Ecco, la Morini era, cioè, è stato il primo, è stato quello che mi ha scoperto, quindi avevo una riconoscenza nei confronti del commendator Morini, quindi non avrei mai voluto andare via perché mi trattavano veramente come fossi un loro figlio, mi davano tutto quel che volevo, eccetera. Però un giorno ho dovuto decidere, io volevo fare i campionati del mondo, la Morini non era forte e grande come l'MV, quindi ho dovuto dire al commendatore che io sarei andato via. E mi ricordo che lui venì in autostrada dove stavo provando con un contratto e mi disse: metti la firma perché io voglio che tu rimani. Quindi mi ha toccato molto, perché si vedeva quanto amore avevano nei miei confronti. Però io in lacrime ho detto: no, io voglio continuare, voglio diventare, cioè voglio fare i campionati del mondo, questa è la mia ambizione. Quindi ho la possibilità di andare con una grande casa, che poi era l'MV Agusta. E così poi lui l'ha capito, effettivamente, ha insistito, però ha capito che era il mio futuro, insomma. Agusta, fine intenditore di motori, ma anche di piloti e campioni, già da qualche anno ha messo sotto contratto Stanley Michael Bailey Haywood, meglio conosciuto dai tifosi come Mike the Bike, centauro inglese capace di vincere 9 titoli mondiali in carriera, di cui 4 consecutivi proprio in sella alla MV nella classe 500 tra il 1962 e il 65. Ma il Conte è un uomo lungimirante, abituato a stare sempre un passo avanti alla concorrenza, ed è convinto che al mago britannico sia necessario affiancare una giovane promessa che possa crescere seguendo nella scia. Ma il vero sogno di Agusta è un altro, segretamente coltivato, ma forse noto a chiunque lo conosca bene. Trionfare nel mondo con un binomio totalmente tricolore. Una moto italiana per un pilota italiano. Agusta e Agostini, quasi un'omonimia, un segno del destino. Il Conte decide così che parlerà direttamente con il ragazzo di Lovere. Convincerlo non è che la prima di una serie di incredibili vittorie. A Destini Incrociati stiamo tentando di restare nella turbolenta scia della carriera del pilota italiano di moto più vincente di tutti i tempi, Giacomo Agostini, e dell'imprenditore che ha reso possibile un binomio italiano mai più ripetuto nella storia di questo sport, il conte Domenico Agusta. Sentiamo con le parole del mitico Ago la ricostruzione del loro primo incontro dall'intervista a Star Bikers. Avevo un appuntamento alle 4:30 del pomeriggio e mi ha ricevuto alle 10 di sera. Quindi già lì ho aspettato, non avevo mangiato, quindi figuratevi, ho detto qui probabilmente non c'è uno che mi fa aspettare così, ero già campione italiano, non avevo grandi pretese, però dico un'accoglienza più veloce, me l'aspettavo, invece fino alle 10:15 di sera mi ha ricevuto, io entro in questa stanza, signor Conte buonasera, e lui alza gli occhi dalla scrivania dove stava lavorando, però lui lavorava moltissimo. Quindi non è che mi ha fatto aspettare così per piacere, perché aveva gente che entrava per gli elicotteri, ingegneri, eccetera, che chiedevano, amministratori. Quindi mi disse, ma buonasera signor Conte, mi dice, ma cosa vuoi? Come cosa voglio? Dico, sono 5 ore che aspetto, mi ha chiamato, cosa voglio? Dico, ma allora io però ho avuto, così, sono stato spiritoso e ho detto, vorrei correre in moto. E dice, ma come correre in moto? Ma tu sei capace di guidare le mie moto? Oddio, io ero campione italiano, quindi dico, ma qui probabilmente c'è qualcosa, perché dico, mi chiama, mi fa aspettare, mi chiede cosa voglio, mi dice se sono capace di guidare le sue moto, qui probabilmente ho sbagliato appuntamento. Invece poi era tutto un gioco, mi dice, vabbè, domani vai a provare a Monza, prova con i birilli in mezzo, anche lì un'altra che prova con i birilli, dico, ma a gincana, dico, io non faccio gincana, io vorrei fare la velocità, però dico, perfetto, ho accettato questo, ma lui è stato un gioco, ho voluto fare questo gioco per provarmi probabilmente, io fortunatamente sono stato al gioco, carinamente ho detto sì, vorrei correre con la sua moto, sì, mi faccio pure provare con i birilli. Conte Domenico era molto molto molto serio, pochi sorrisi, però dentro di lui capiva il valore, insomma mi è stato poi, direi che è diventata la mia seconda famiglia. Il conte Domenico non può che sentirsi soddisfatto. Nella seconda metà degli anni 60, l'Agusta SPA nel settore degli elicotteri riceve commesse da tutto il mondo e la MV riceve dalle vittorie di Agostini un ritorno di immagine e di vendite sopra ogni previsione. Ma è nella vita privata che il conte sta per trovare un ostacolo che ne minaccerà la serenità personale e familiare. La poco più che adolescente figlia Giovanna, definita dalla stampa rosa la contessina, si è perdutamente innamorata di José Hermano da Silva, noto come Germano, un calciatore brasiliano del Milan e tra i primi calciatori di colore a giungere nel campionato italiano quando il paese ancora non è pronto alla multietnicità. José è piccolo, di poverissime origini, e forse non proprio un campione, ma l'incontro con Giovanna, più alta, più colta, ereditiera di grandi fortune e soprattutto bianca, spariglia le carte del destino e del conte Domenico, che si oppone in ogni modo alla relazione. Lo scandalo si sposta presto sulle copertine dei settimanali di tutto il mondo e raggiunge il culmine con la fuga di Giovanna, incinta, in Belgio, per sposare Germano. Il conte prova in ogni modo a fermare la figlia, ma nulla può. L'uomo capace di costruire motori eccezionali, dirigere grandi aziende, forgiare campioni leggendari, si arrende di fronte alla determinazione di una figlia innamorata e moderna. Le vicende private del patron non fanno tuttavia perdere la concentrazione a Giacomo Agostini, che già nel primo anno con i colori Agusta riesce a piazzarsi secondo nel mondiale alle spalle di Halewood nella 500 e mancare di un soffio il trionfo nella 350 nell'ultima gara in Giappone a causa dell'improvviso distaccarsi dal condensatore di un filo elettrico male saldato che ne determina il ritiro. L'aver mancato la sua prima conquista mondiale per colpa di un guasto banale acuisce a dismisura l'attenzione di Agostini nei confronti dei dettagli, originandone la leggendaria pignoleria che per tutta la carriera gli farà controllare e ricontrollare personalmente ogni piccolo particolare. Ma la sete di vittorie di Ago non tarda ad essere appagata, complice anche il passaggio di Halewood alla Honda. Gli epici duelli tra i due piloti si susseguono per tutto il 1966. Poi, l'11 settembre, a Monza, la storia finalmente si riscrive. È il Gran Premio delle Nazioni, Al Parco Reale si corre la gara decisiva per l'assegnazione del titolo e a giocarsela sono naturalmente Agostini e Haywood. Una folla entusiasta e con il fiato sospeso fin dai primi giri. Il campione uscente inglese è già davanti, sicuro, curva dopo curva, in sella alla sua onda. Ma alle sue spalle l'MV di Ago lo incalza, gli mette sempre più pressione, accompagnato dal tifo senza tregua del pubblico. Al quarto giro il sorpasso e il boato dei tifosi. Ma Mike è sempre a ruota, sempre pericoloso. Al settimo giro, la fortuna che in Giappone l'anno prima si era distratta, si siede questa volta ben salda sulla sella di Giacomo. Mike, in un tentativo di sorpasso nei pressi della parabolica, cade rovinosamente e i tentativi di rimettere in moto la sua onda risulteranno vani. Il resto della gara per Giacomo è una passerella trionfale. 9 anni dopo Libero Liberati e la sua Gilera, un italiano è ancora campione del mondo della classe 500. Sì, anche perché ero partito non bene, però poi sai, c'era questa tensione, se vincevo ero campione del mondo, quindi davanti al mio pubblico, poi ho vinto davanti al mio pubblico, quindi immaginate, sai, poi il primo titolo, sai, come la prima volta è sempre... Sì, sì, c'erano più, anche 120.000 persone hanno invaso la pista alla fine, mi hanno portato in trionfo, è stata una cosa bellissima, quindi è stato... quando mi dicono grande ricordo è uno di questi, cioè anche se ne ho altri tanti, però... Questo era il primo, quindi lei difatti vede che porto il primo ed è questo che mi porto sempre al collo. Questo è il primo titolo. Questo è il primo titolo nel 66. Dal 1966 Giacomo inizia un predominio assoluto sul motociclismo che durerà un decennio, anche se non mancheranno i momenti difficili come durante il Tourist Trophy del 1967 che sentiamo raccontare ancora da Ago. Grande gara nel 67 al Tourist Trophy, perché battere Haywood al Tourist Trophy era quasi impossibile, era casa sua, quindi era molto difficile, lui era molto bravo, lui correva e vinceva con la 125, con la 250, con la 350, con la 500, quindi sapevo che era molto dura. E niente, ero in testa, poi perdevo qualche secondo, poi li riprendevo, quindi è stata sempre una gara di 360 km, sempre sul 6 secondi, 8, 3, 7. L'ultimo giro, che io di solito lui guadagnava un po' in montagna, salita e montagna guadagnava un po', io guadagnavo dall'altra parte. Però l'ultimo giro ho detto ormai qui deve, e sono arrivato alla fine della montagna con 8 secondi di vantaggio, quindi ho detto fatta, perché era lì dove lui mi poteva fregare. Però io niente, ho dato il massimo e mancavano 3 km all'arrivo, quindi avevo 8 secondi e era vinta la gara, insomma, nel senso che non, in quel tratto poi lui non guadagnava più con me, quindi con questi 8 secondi di vantaggio sarei arrivato con gli stessi. E solamente che purtroppo dopo una curva incomincio, seconda, terza e bam, è saltata la catena e ho dovuto tornare in lacrime all'arrivo. Haywood ha vinto sul podio, però era triste perché lui sapeva che quella non era una sua vittoria ma era la mia vittoria, quindi mi ha chiamato, siamo andati a festeggiare, cioè è stato veramente un grande sportivo, un grande signore. Nonostante le difficoltà, anche il 1967 vede Giacomo trionfare e piazzarsi secondo in 350, ma nei successivi 5 anni riuscirà a conquistare l'iridato in entrambe le classi, lasciando agli avversari la modesta consolazione delle classi minori. Quando nel 1977 si ritira, diviene il pilota che ha conquistato il maggior numero di titoli iridati, 15, vincendo 123 Gran Premi e riuscendo a guadagnare il podio in 163 delle 190 gare valide per il titolo mondiale alle quali ha partecipato. Un record tutt'oggi imbattuto. E la popolarità di Ago, personaggio allegro, scanzonato, forse un po' guascone, bello e sicuramente intelligente, agli inizi degli anni 70 è ormai enorme. E il bergamasco incarna il prototipo dello sportivo moderno in grado di gestire la propria carriera in modo manageriale, diventando un personaggio anche in campi diversi da quello motociclistico. Fotoromanzi, film, campagne pubblicitarie e decine di flirt, molti veri e altrettanti presunti, con modelle e star dello spettacolo. Me lo sono sempre cavata abbastanza bene, anche se dovevo stare molto attento, nel senso che io, per me erano le due ruote, il mio impegno di prepararmi era aveva la priorità, e dopo quello, naturalmente quando sei giovane non hai tanti problemi, impegni di lavoro, quindi il mio lavoro era quello, quando era finito quello ero libero per curare le altre cose. Ma paradossalmente è proprio la grande popolarità che accompagna la carriera di Agostini a iniziare a minare il rapporto con l'azienda lombarda, dalla quale divorzierà nel 1973. Il pubblico a quei tempi è già diviso tra i sostenitori del prevalente merito di Agostini come pilota e chi attribuisce le vittorie alla superiorità tecnica della moto, situazione che infastidisce non poco l'azienda e il conte Agusta, che decidono di affiancare ad Ago Angelo Bergamonti, un pilota talentuoso e aggressivo in pista, nel tentativo di ridimensionare la figura di Agostini rispetto alla moto. Ma il destino, come sempre, ha altri piani. Nell'aprile del 1971, sul circuito cittadino di Riccione, Bergamonti perde tragicamente la vita in pista. Agostini, turbato, porta comunque a termine la stagione vincendo il mondiale sia in 350 che in 500, il suo nono e decimo titolo iridato. Ma il 1971 vede un altro lutto abbattersi sulla casa di Samarate, quest'ultimo ancor più decisivo. Il conte Domenico Agusta muore infatti quello stesso anno, lasciando l'azienda priva di un successore all'altezza. Il fratello Corrado interromperà le attività agonistiche della casa nel 1976, concentrandosi sul settore aeronautico. Due anni dopo la MV Agusta interrompe anche la produzione, per rinascere con l'acquisizione del marchio da parte del gruppo Cagiva nel 1992. L'anno successivo la dipartita del conte, Agostini trionfa ancora sia nella 500 che nella 350, classe nella quale si ripete anche nel 1973. La striscia di vittorie mondiali di Ago è ormai divenuta impressionante, ma qualcosa nel rapporto con la MV pare essersi ormai definitivamente incrinato, complice anche qualche sgarro del reparto corse che favorisce in un paio di occasioni il compagno di squadra del momento, Phil Reed, che infatti gli soffia il mondiale della 500. La morte di Agusta non è certo di aiuto per la distensione dei rapporti e si deve aggiungere la corte serrata della Yamaha, che già da qualche anno ha tentato in ogni modo di portare Ago in Giappone. Alla fine Giacomo, in mezzo a mille polemiche e a un'Italia sportiva divisa in due, accetta l'ingaggio dei nipponici, stratosferico anche per quei tempi, 150 milioni di lire. Ma gli inizi non sono semplici e l'italiano deve cedere ancora una volta il titolo della 500 alla MV di Reed, consolandosi, si fa per dire, con la conquista della 350. L'anno successivo, il 1975, finalmente a suo agio sulla due tempi giapponese, Agostini, all'età di 33 anni, entra definitivamente nella leggenda del motociclismo, vincendo nella classe 500 il suo quindicesimo e ultimo titolo mondiale. Io li ho incontrati tutti grandi, tutti i campioni del mondo: Provini, Ubiali, Sarine, Lucchinelli, Pasolini, Kenny Roberts, Ceccotto, Jim Redman, Phil Reed, Mike Hailwood, tutti, Saarinen, e li ho battuti tutti. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.